La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie per l'ascolto in diretta e in podcast. Sono le 16.30, primi 49 secondi qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Tentiamo di fare in questa trasmissione un punto di riflessione e anche di spiegazione delle ipotesi che sono di fronte a noi come paese per il suo sistema bancario e in particolare per il Monte dei Paschi, perché come avrete capito in questi giorni la vicenda sta precipitando, per così dire, dopo la perdita ieri del 14% di un titolo che non riesce più a fare prezzo e è praticamente sottoposto o a ogni sessione di borsa oramai a stop successivi per limitarne il calo. Avete sentito probabilmente dal notiziario prima che anche oggi la vicenda si sta ripetendo, mentre altre banche hanno il segno più, un'altra perdita del 12%, vedremo come il mercato chiuderà. Per notizie del mercato stabilizzato vi rinvio naturalmente dopo a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Però invece, dal mio minoritario punto di vista, è molto interessante tentare di ragionare con voi ascoltatori e con una voce del mercato, appunto con l'ospite che avremo tra pochissimo, per tentare di spiegare, capire che cosa davvero abbiamo di fronte a noi come ipotesi percorribili per ricapitalizzare il Monte dei Paschi, visto che di questo si tratta. Qualche cenno innanzitutto su cosa trovate sui giornali e poi saranno le domande che farò al nostro ospite, e qualche cenno, e comincio di qua, anche storico, relativo alla vicenda del Monte dei Paschi. La vicenda del Monte dei Paschi, in questo paese che ha amato ripetere nel post 2011 che noi avevamo il sistema bancario più solido al mondo, esplode prima del cambio delle regole europee che stanno così strette all'Italia che le contesta, cioè quelle della direttiva europea per il rafforzamento e la risoluzione delle banche, la cosiddetta famigerata, secondo molti, BRRD, che nasce nel 2013. Dal 2011 al 2013, quando esplode la crisi del debito sovrano in Europa, ve lo ricorderete, i paesi membri dell'euroarea dell'Unione Europea affrontano i guai del proprio sistema bancario ciascuno a modo suo, senza nessun coordinamento. E sono i famosi anni in cui anche la Germania mette pacchi di miliardi per il rafforzamento di capitale e la fusione di molte delle sue banche pubbliche, le banche regionali, la Landesbanken, e altre ne mette a garanzia di operazioni di rafforzamento, quindi senza entrare nel capitale di molte altre banche. Tanti altri paesi seguono altre strade, il Regno Unito di fatto nazionalizza grandi banche e poi inizia, dopo averle pulite, a ricederne le quote sul mercato. Altri paesi ammettono di non avere la forza finanziaria per fronteggiare il problema dei propri sistemi bancari e, come fatto da Spagna, Portogallo e Irlanda, si sottopongono a programmi straordinari con i soldi europei dell'SM, programmi vincolati a una vigilanza internazionale europea e fondo monetario. Noi non facciamo in quegli anni niente di tutto questo perché sosteniamo di avere le banche sane. Invece il problema MPS era già esploso allora, perché veniva al pettine il nodo del folle acquisto per 9 rotti miliardi di euro dell'Anton Veneta prima di Lehman Brothers. E però tra 2011 e 2012 i governi italiani non decidono affatto, allora si poteva fare, di entrare con il capitale pubblico nella banca, azzerarne gli azionisti ripulirla e poi cederla sul mercato. Decidono invece, in buona sostanza, di salvare la fondazione cara al PD, visto che di questo si tratta, che volta per volta scenderà a percentuali sempre più da 0, nel capitale, da che deteneva più del 50% della banca, in barba a tutti gli impegni di legge che naturalmente la obbligavano a scenderne, ma così non era, perché banca del PD, quindi non si toccava. Salvano la fondazione e impiccano il Monte Paschi a redditività bassissima a pagare pingui interessi allo Stato per i Tremonti o Monti Bonds, chiamateli come le volete a seconda di ascriverli, ma di fatto la paternità è tremontiana e poi l'applicazione è del governo Monti. Da allora la banca resta a rosolarsi, 8 miliardi successivi di aumenti di capitale bruciati, perché nel frattempo il monte dei crediti deteriorati è tale che la banca non riesce a risolvere sul mercato la cessione di quei crediti, sia pur innalzando nel tempo la copertura, e non riesce ad avere una redditività tale da convincere i mercati. Adesso perché è nel fuoco del ciclone di nuovo? Perché si aspettano entro fine luglio i risultati delle nuove ispezioni, gli stress test europei. Formalmente il Monte Paschi doveva superare, cioè c'è un CET1, un indice di capitalizzazione sopra il 10% e così via. Di fatto tutto appare molto problematica in realtà la sua operatività quotidiana, perché c'è un monte di crediti deteriorati troppo elevato. Premessa: a giugno riceve una lettera della vigilanza europea che raddoppia gli impegni del suo piano industriale, quindi gli chiede di cedere entro un paio d'anni 10 miliardi almeno di crediti deteriorati e di ridurli poi successivamente a non oltre il 20% dei suoi impieghi. Questa è la premessa. Con questa premessa, a questo punto diventa ragionevole immaginare che non supererà gli esami europei, e di qua il fatto che esplode sui giornali in questi giorni di una trattativa aperta con l'Europa dall'Italia per vedere come, nel rispetto delle regole europee, si fa per dire, ma comunque nel rispetto delle regole europee, questa è la posizione ufficiale ribadita da Renzi ieri, procedere a una ricapitalizzazione pubblica del Monte Paschi medesimo. E qui ci fermiamo per la storia alle nostre spalle, però una storia ai miei occhi di pesantissima responsabilità ed errori, ancora una volta, delle autorità finanziarie e politiche italiane. Detto tutto questo, sui giornali trovate oggi, stamattina, mi riferisco a questo, ipotesi abbastanza diverse. Corriere della Sera, Alesina Giavazzi, malgrado siano per me punti di riferimento, propongono una via americana, quella del TARP, e suggeriscono che praticamente è pronta sui tavoli delle autorità italiane, sarebbero solo gli azionisti di controllo, i manager delle banche italiane a opporsi. Sta di fatto che questa soluzione non è affatto confermata dal resto dei giornali italiani, che parlano invece di tutt'altro. Se voi leggete il Sole 24 Ore o La Stampa, Alessandro Barbera, troverete che sui tavoli delle autorità italiane c'è una trattativa aperta con Bruxelles per ricapitalizzare attraverso l'emissione di strumenti ibridi di capitale, cioè attraverso obbligazioni di Stato trasformabili in azioni del Monte Paschi. E il punto è, chiede la Commissione, secondo la BRRD, la direttiva europea, voi dovete comunque procedere a una compartecipazione degli oneri di risanamento e quindi colpire anche una parte degli azionisti junior della banca. Le autorità italiane dicono no, noi non vogliamo colpire né, ovviamente, né i correntisti, ma nemmeno gli obbligazionisti, e anzi all'inizio non vogliamo colpire neanche gli investitori istituzionali che stanno nel capitale. Perché, altro riferimento alla stampa di oggi, Federico Fubini cita l'esempio del Portogallo, dove nello scorso autunno, mentre in Italia esplodeva il panico con le quattro banche risolte, su una banca portoghese, quando i portoghesi decidono di colpire solo gli investitori istituzionali, il capitale internazionale, i capitali iniziano a dire il Portogallo non è più un paese affidabile, quindi meglio non colpirli. E questo è il grande punto della trattativa di oggi. Poi, per i crediti deteriorati, si procederebbe rifinanziato con qualche miliardo preso dalle assicurazioni, trattino. L'ANIA stamattina ha negato però che per il momento ci sia una trattativa ufficiale. Al Tesoro dicono che alcune assicurazioni invece sono disposte a ricapitalizzare Atlante, che come sapete ha impedito la risoluzione di Veneto Banca e Vicenza, però non ha più i soldi, ha un paio di miliardi residui con i quali non è che può aggredire il monte degli 83 miliardi di sofferenze nette del sistema bancario italiano, quindi bisogna ricapitalizzarlo. Vedremo quando e se le assicurazioni e i fondi previdenziali privati daranno altri soldi. Con quello fare un'altra l'inizio di operazioni sui crediti deteriorati. Altrimenti, terzo pilastro, oltre a quello dell'ingresso nel capitale delle banche con strumenti ibridi obbligazionari di Stato, poi secondo, ricapitalizzando Atlante, terzo, però forse serve davvero la bank pubblica che Banca Italia da anni ha proposto e che non è mai passata. Allora, questo è quello che trovate sui giornali italiani oggi. Tentiamo di capire invece come ragiona il mercato, di che cosa davvero ci possiamo aspettare, a cominciare da MPS, di cui vi ho ricordato la storia passata e la storia recente, cioè le richieste aggiuntive venute per iscritto a Siena, che se ne occuperà a quanto pare, anche se non è notizia ufficiale, in un consiglio d'amministrazione straordinario di Siena che dovrebbe tenersi dopodomani, nei quali avviare la proposta anche di una piattaforma interna della banca per i crediti deteriorati. Si parla di Mediobanca come advisor, eccetera eccetera. Allora, l'ospite con noi è Gianluca Codagnone di Fidentiis, e grazie di darci la disponibilità di spiegare ai nostri ascoltatori. Fatto questo quadro, buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Gianluca, innanzitutto. Ciao Oscar, buona serata a tutti. Allora, innanzitutto, iniziamo a spiegarci perché che cosa vuol dire questo fatto che il titolo perde il 14%, il 12%. Cioè, il mercato che cosa mostra di scontare davvero come aspettativa di quello che avverrà? Dunque, Monte Paschi ha circa 10 miliardi di patrimonio netto e in questo momento la valutazione che il mercato dà di quel patrimonio netto è inferiore al miliardo. Dopodiché ha anche 7 miliardi di junior bonds che in questo momento trattano più o meno tutti a 50. Quindi direi che il mercato in questo momento dà una valutazione economica dello stato patrimoniale del patrimonio netto del Monte Paschi, implicando già una perdita di circa 9 miliardi sulla parte patrimonio netto, e implica anche una certa perdita, diciamo, di più o meno 3 miliardi sui junior bonds. Quindi il mercato già sconta 12 miliardi di perdite sul Monte Paschi. Non è che il mercato abbia sempre ragione. No, certo. Potrebbe sbagliare, l'ha fatto molte volte. Però, quindi in questo momento diciamo che le aspettative incorporate nei prezzi di azioni e obbligazioni del Monte Paschi non sono obbligazioni junior del Monte Paschi non sono esattamente stellari. Però quindi, questo dà un'idea come ordine di grandezza, e poi bisogna vedere come si fa, questo poi spiegheremo dopo. Ma come ordine di grandezza dell'entità dell'iniezione di equity Diciamo che questa perdita è spiegabile. Allora, trovare una monocausa nelle relazioni, cioè diciamo in finanza è veramente difficile. Certo. Una parte di questa valutazione più bassa dell'equity del Monte Paschi viene anche dalle aspettative di una redditività futura di tutte le banche tradizionali più bassa, perché come tutti sanno c'è un'aggressione al modello di business tradizionale delle banche che arriva dalla tecnologia, da banche senza sportelli con una linea di costi più bassi, e una parte invece una spiegazione potrebbe anche essere, almeno in parte, che il mercato si aspetta una svalutazione degli attivi del Monte Paschi e che quindi il valore netto del patrimonio del Monte Paschi sia più basso di quello riportato a bilancio, con il che non è che si voglia qui contendere la validità dei bilanci della banca, dove il management che ha lavorato sulla banca ultimamente ha lavorato anche bene. È proprio che ci sono, diciamo, delle forze sul modello bancario tradizionale che tirano contro, e c'è un certo scetticismo magari sul Monte Sofferenza e sulla valutazione a bilancio del Monte Sofferenza. Allora, passo indietro. Ho citato oggi tra diverse tesi avanzate sui giornali la scelta del Corriere della Sera, che è quella di dire bisognerebbe fare il TARP all'americana, le autorità sarebbero anche pronte, ma gli azionisti di controllo e i manager delle banche italiane sono contrarie. A me sembra una tesi che fa incalabile nello scenario europeo e italiano, e non mi risulta che le autorità italiane vogliono diluire davvero gli azionisti. Tu che pensi? Ma se posso, prima di tutto io su questa questione farei un passo indietro sulla questione definitoria. Il TARP all'inizio era una specie di QE per le banche, cioè era una specie di cosa che era stata studiata per cui la Fed doveva comprare a prezzi che non abbiamo mai capito, perché poi alla fine non l'hanno mai fatto, gli attivi in sofferenza delle banche americane. Esatto. Infatti si chiamava TARP, che vuol dire Trouble Asset Relief Program, proprio perché era previsto che la Fed comprasse gli attivi, in questo caso gli attivi in sofferenza delle banche americane, una specie di mega atlante pubblico, cosa che durò circa 12 secondi. Non comprarono mai niente perché ovviamente conviene, dato che le banche lavorano a leva, cioè per ogni 10 euro di patrimonio possono avere attivi a bilancio diciamo di 100 euro, sto facendo un'esemplificazione ovviamente. Conviene usare risorse pubbliche per ricapitalizzarle. Infatti, in una famosa frase di Soros, il programma TARP venne cancellato in un secondo e si preferì iniettare le cosiddette preferred shares, che sono una specie di equity che lo Stato americano iniettò nelle banche americane. In questo caso qui, però, c'è da dire che lo Stato americano beneficiava di un rating sovrano molto più alto di quello delle banche, e quindi iniettando i soldi nelle banche in un certo senso poteva anche attrarre il rating delle banche al rating dello Stato. Da noi? Nel nostro caso il rating dello Stato italiano, come si sa, è piuttosto basso. Le banche, ovviamente, come in tutti i paesi, credano un notch sotto, cioè credano un gradino sotto lo Stato sovrano. E quindi tutto questo beneficio da andare da single B a double B non si vedrebbe. Piuttosto qui invece siamo in presenza del fatto che da prima il governo ha messo a posto, diciamo così, con la garanzia che ha ottenuto settimana scorsa da Bruxelles di poter stampigliare una garanzia di Stato sulle future emissioni senior bonds di tutte le banche, secondo me ha messo una pietra abbastanza importante nell'equiparare ogni banca a un'altra, cioè a questo punto spostare i depositi da una banca ad un'altra banca in presenza di questa garanzia è completamente inutile. Nel senso che ogni banca che mantenga un livello di capitalizzazione sufficiente a mantenerla in business, cioè il famoso SREP level, è uguale all'altra banca. Il che non è detto che sia un beneficio per le banche più solide, anzi. No, certo che no, però diciamo l'arbitraggio di spostare un deposito da una banca all'altra perché si ha paura, in banche che hanno il livello di capitale adeguato per mantenersi in business, è completamente inutile. Così come è difficile temere il non rinnovo di un senior, di una banca, di un senior bond, per una banca che possa accedere alla garanzia di Stato, cioè, ripeto, che abbia capitale a sufficienza per mantenersi in business. E quindi, questa diciamo, è la spiegazione degli effetti della garanzia straordinaria fino a 150 miliardi di liquidità concessaci la settimana scorsa. Sì. Dopodiché le banche sono, diciamo, il lato delle passività delle banche ha un lato che sono depositi e bonds sotto ogni forma, junior, senior bond, eccetera, eccetera, e poi c'è la parte, diciamo, capitale sociale, patrimonio netto, equity. Ecco, su questo il governo italiano sta trattando e, diciamo, lo stand-off o il duello con l'Unione Europea è su cosa fare in quelle banche che attualmente, almeno nominalmente, hanno tutte un livello adeguato di capitale, ma che sono cominciate a uscire sui giornali in descrizioni che, vabbè, noi giudichiamo perché leggiamo i giornali, potrebbero non avere il capitale adeguato per sopportare gli stress test sotto adverse scenario. Cioè ci potrebbe essere qualche banca che sotto uno scenario avverso di crescita del PIL italiano, che è quello che alla quale verranno sottoposte le banche nei prossimi giorni, potrebbe non avere capitale a sufficienza. E il problema è che si fa lì. Aspetta, ti fermo perché abbiamo un minuto di informazione sul traffico e ricominciamo di lì applicato a Montepaschi. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... La versione di Oscar. Ed eccoci, ricominciamo. Siamo arrivati con il nostro ospite Gianluca Codagnone, Managing Director di Fidentiis, a porci la domanda: come si fa per Montepaschi, che è il mercato per quello che è uscito dalle richieste della BCE di diminuire nei prossimi anni in maniera radicale il suo monte crediti deteriorati, e stimato oggi con un capitale non in grado di reggere alle emergenze negative, alla luce di quello che c'è scritto un articolo della BRRD che consente a quel punto anche ricapitalizzazioni pubbliche, ma come si fa a mettere d'accordo quella che sembra la posizione delle autorità italiane? D'accordo, ma lo facciamo però senza far compartecipare al risanamento né i correntisti, d'accordo, né gli obbligazionisti di alcun tipo, primo punto interrogativo. Terzo, neanche gli investitori istituzionali, cioè sette di controllo o investitori istituzionali nell'equity presenti oggi nel capitale delle banche. Come si risolve questo problema, visto che la Commissione Europea ha sempre detto, e lo ha già praticato in Grecia e non solo in Grecia, no, veramente bisogna far compartecipare per l'8% del passivo alcune di queste categorie? Allora, ascoltami Oscar, dico una cosa che ho capito e altre cose che invece leggiamo dei giornali, perché non è che esistano poi tutte queste comunicazioni ufficiali, vediamo degli articoli con delle indiscrezioni. Invece sulle cose che si sanno perché sono ufficiali, perché Montepaschi ce le ha comunicate, è questa lettera della ECB che gli avrebbe chiesto due o tre cosette. Ora, francamente, io di quella lettera ci sono delle cose che non ho molto capito, nel senso che si chiede al Montepaschi di ridurre le sofferenze entro il 2018 sotto il 20% dei prestiti, e attualmente le sofferenze lorde del Montepaschi, sofferenze, perché parlo di sofferenze, non sono molto lontane da quella cifra. Se invece si parla di problematic exposure, cioè anche gli incagliati e anche gli unlikely to pay, e allora è una cosa diversa, sono ben oltre il 35%. E lì già c'era un problema definitorio che, almeno per me, non chiarissimo. Vado a immagino che la commissione si riferisse a tutte le problematic exposures, e a quel punto, e allora il Montepaschi dovrebbe diminuire, diciamo, di circa, a parità di, diciamo, di prestiti, dovrebbe diminuire circa di 20 miliardi lordi tutte le problematiche exposure. Quello che gli chiedono è entro l'8 ottobre, e devo dire che questo era già più o meno nel piano del Montepaschi. Non ho capito bene che cosa dovrebbe fare il Montepaschi entro l'8 ottobre, immagino forse far capire che misure intende prendere. Sì, esatto, però questo è quello che ho capito anch'io. Però anche lì, veramente, questa volta devo dire in tutta onestà che ho capito poco. Invece, per quanto riguarda la questione di che cosa si fa quando una banca ha un ammanco di capitale che viene da una simulazione come uno stress test di un scenario avverso, perché allo Stato Montepaschi non ha nessun ammanco di capitale. Ci sono due alternative, diciamo, che sono quelle che stanno... parliamo di uno scenario di pre-resolution, cioè la banca non entra in risoluzione perché il capitale ce l'ha per stare in business. Allora, in pre-risoluzione, quello che il governo sta chiedendo praticamente è, siccome il Montepaschi è sistemico, perché la terza, immagino io, perché non è che anche lì, non è che il governo ce l'abbia detto cosa sta chiedendo, però immagino che stia chiedendo più o meno questo: siccome il Montepaschi è la terza banca italiana, e quindi è come minimo domesticamente sistemica, non possiamo permetterci una risoluzione, cerchiamo di operare nell'eccezione dell'articolo 32 della direttiva di risoluzione bancaria, e quindi di fare una ricapitalizzazione preventiva. Il governo, da quello che abbiamo capito, vorrebbe iniettare dei soldi in Montepaschi come equity o strumenti simili, senza perciò facendo pagare il prezzo agli azionisti del Montepaschi attuale, tra cui c'è il Tesoro stesso col 4%, ma da quello che si capisce non facendo pagare un prezzo né a Junior Bond né tantomeno a Senior Bond. E ti aspetti un sì su questo? Non lo sappiamo. No, io non lo so, dico che cosa invece l'Unione Europea avrebbe fatto filtrare più o meno, o avrebbe comunicato, o diciamo lo schema che è stato usato per le quattro banche, cioè sono state mandate in risoluzione prima del gennaio di quest'anno. Da quello che abbiamo capito noi, la Banca Centrale dice no, ci sono